4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buona serata amici dei motori, bentornati ancora una volta al programma di motori di Radio 24 in collaborazione con Quattro Ruote. Ormai da 9 anni vi teniamo compagnia ogni sabato dalle 21 alle 22, dico così perché ormai l'orario dal prossimo weekend per 5 weekend nel palinsesto estivo di Radio 24 sarà questo, quindi ricordatevi staremo insieme un quarto d'ora in più. Questa sera ci fermiamo alle 9:15 e invece arriveremo fino alle 10 sabato prossimo. L'appuntamento è comunque semplice, ogni sabato alle 9 di sera, alle 21 ci siamo con l'archivio, con la pista, con gli esperti di Quattro Ruote, tante idee che provengono dagli ascoltatori ad un sito innanzitutto che è radio24.it, nella sezione dei programmi c'è anche Quattro Ruote e dintorni e lì tutta una serie di archivi. Inoltre l'indirizzo è uno solo, semplice per raggiungere tutte le voci che sentirete anche questa sera, ma anche per darci quei consigli di argomenti o auto che vorreste che noi provassimo. 4 scritto in numeri, ruote, radio24.it. Vorrei dirvi di che cosa ci occuperemo questa sera, sono ricchi e numerosi i temi, partiremo con una grande inchiesta di Quattro Ruote a firma anche di Emanuele Barbaresi che è già in linea con noi. Caro Emanuele, buonasera e bentornato. Buonasera, grazie di averci invitato. Ci occuperemo con lui di autogrill, ne hanno visitati tantissimi e tra poco sentiremo il perché e l'indagine che tipi di risultati ha dato. Poi il professor Malagodi si occuperà per noi di mercato dell'auto che soffre ancora ma non come mesi fa. Ci occuperemo di BMW che con la nuova Z4 è riuscita a tirar fuori un'auto che piace tantissimo se non fosse per il prezzo in un momento difficile, ma sembra proprio che questa Z4 abbia tutte le caratteristiche per sfondare più ancora di quella vecchia, che vecchia tra virgolette vecchia, diciamo la prima versione Z4 che tanto già era piaciuto. Poi ancora l'avvocato Lievore e tante sorprese. Iniziamo con ordine dagli autogrill italiani. Emanuele Barbaresi con alcuni colleghi si è studiato una bella inchiesta. Emanuele, vuoi darci tu una panoramica iniziale, magari con l'idea da cui siete partiti, perché è già qualche anno che ve ne occupate? Sì, noi di solito, specie all'inizio dell'estate chiaramente, perché l'argomento è molto interessante per gli automobilisti, andiamo a monitorare alcune tra le principali autostrade italiane per vedere qual è lo stato delle autostrade, ma anche qual è lo stato delle aree di servizio. E questa volta l'abbiamo fatto in modo particolarmente capillare, perché abbiamo, si può dire, visitato per intero la 1, l'autosole, l'autostrada principale, e la 14, che è la Bologna-Taranto, un'altra autostrada molto gettonata dei vacanzieri, la 22, l'autostrada del Brennero, la 10 e la 12. La 12 per la verità solamente il tratto Ligure, cioè quello da Genova alla Spezia, sì, la sì. 10 tutta, cioè la Genova 20 miglia, quindi abbiamo fatto praticamente tutta la Liguria. Il risultato, insomma, abbiamo visto alla fine 150 aree di servizio. Che non sono poche. Non sono poche. quanti eravate, Emanuele, in giro per io l'Italia? Io ed Emilio Adelaidi, sì. Per cui ci siamo suddivisi, diciamo, questo compito gravoso ma anche interessante sotto certi profili. Chiaro. Allora, ci puoi restituire i titoli? Se fosse un giornale, quello che stiamo facendo ora, il titolo principale quale sarebbe? Il titolo principale è Dribbling in aria, che poi è il titolo vero, quello che è uscito ottimo. Sul giornale. Perché la cosa che più ci ha colpito è lo stato di alcune aree di servizio dove praticamente i camion intasano completamente l'area, andando ad occupare anche i parcheggi riservati alle auto. È vero, questo si trova in una situazione non di di pericolo, assolutamente. Grave pericolo, perché veramente ci si vedono certe auto che sono costrette a fare proprio dei dribbling per uscire o per entrare nell'area di servizio, e questo veramente con il rischio tra l'altro di sbucare anche se a velocità bassa ma in maniera cieca dietro un camion, perché poi è un po' quella la manovra difficile. Tu hai provato a chiedere anche di chi è la responsabilità? Ma guarda, io penso che i problemi di responsabilità siano molteplici. Innanzitutto ci sono alcune aree di servizio che hanno proprio dei problemi strutturali, nel senso che sono molto piccole e quindi hanno dei parcheggi per camion piccolissimi e assolutamente non adeguati, e quindi i camion, per forza di cose, se si fermano devono spostarsi certo. Perché c'è delle auto che a loro volta hanno pochi posti auto, per cui si crea una situazione di assoluta congestione. Questo avviene soprattutto in alcune aree di servizio liguri, e anche, questo forse meno noto, in alcune aree di servizio marchigiane. E tra l'altro in questo caso, specie per quanto riguarda le aree di servizio marchigiane, la cosa peggiore ulteriormente è che ci sono dei lavori in corso, perché stanno facendo la terza corsia in molti che peggiora, esatto, peggiora la questo situazione. Questo provoca una situazione ancora peggiore. Poi è chiaro, in alcuni casi c'è anche la maleducazione di persone che parcheggiano il camion anche se nonostante potrebbero benissimo parcheggiare nell'area loro riservata. Però insomma, nella maggior parte dei casi i problemi sono strutturali e sono assolutamente gravi. Quindi dribbling è la prima parola chiave, poi i sottotitoli, sì. O meglio a questo punto i titoli di spalla e di centropagina. Ma guarda, un problema annoso è quello delle toilette. A che punto siamo? Toilette, diciamo, non... La situazione non è peggiorata rispetto agli ultimi anni e forse questo, considerato come vanno le cose nel nostro paese, è quasi una buona notizia. Però, insomma, la distanza, la mia impressione è che la mia impressione perché giro abbastanza anche all'estero, è che la distanza tra l'Italia e il resto d'Europa aumenti sempre di più per quanto riguarda addirittura. Io sono stato di recente, ho fatto un viaggio recente in Francia e anche in Germania, in Austria, scusa, e la situazione è completamente diversa. Diciamo che da noi è molto variegata, ci sono delle situazioni assolutamente ottime, però altre in cui c'è un degrado incredibile, per cui è un po' una roulette, nel senso che è un po' una roulette, a meno di non leggere sul sito internet di Quattro Ruote tutte certo. Le valutazioni che abbiamo dato area di servizio per area di servizio. Chiaro, quattroruote.it per i sì. Dettagli. Dopo quindi... c'è... Per ogni area c'è una valutazione molto precisa. Certo. Senti, avete provato anche i servizi all'interno delle aree ristorazioni, bevande, bibite, eccetera? Ma diciamo, su questo la cosa è stata molto meno capillare, chiaramente, perché non era materialmente possibile provare 150 ristoranti o certo, 150 certo. Bar. Quindi diciamo ci siamo affidati più alle impressioni così visive. E devo dire che in questo caso abbiamo notato una certa omogeneità dell'offerta, sia per quanto riguarda la varietà dei menu, sia per quanto riguarda i prezzi, che sono abbastanza allineati, nonostante i gestori insomma, siano ormai più di uno, una volta sono autogrill, pochi altri, adesso insomma, iniziano ad essere tanti, però insomma, sotto questo profilo non c'è molta differenza di prezzi. È chiaro, anche perché da regione a regione alle volte si trovano anche piatti ben fatti, c'era stato 3-4 anni fa un passaggio notevole di qualità, in cui sì. C'era stato uno sforzo, ti ricordi, ne avevamo parlato certo. In trasmissione, di ristorazione, di qualità del servizio, devo certo. Dire, ogni tanto capita di trovare degli autogrill in cui si mangia è anche abbastanza bene. Certo. Abbiamo detto delle toilette, abbiamo detto dei servizi esterni, che cosa manca, Emanuele? Ma guarda, un'altra cosa molto molto, insomma questa è una cosa che c'è da sempre, però sarebbe assurdo ignorarla. In alcuni casi è proprio pericoloso l'accesso e l'uscita da alcuni autogrill. E questo è veramente pazzesco, perché specie per quanto riguarda gli autogrill liguri, in alcuni casi ci sono delle situazioni di uscita a ridosso di gallerie, e questo provoca veramente, se uno non sta attento, insomma potrebbe provocare situazioni molto pericolose. Di pericolo, quelle sono proprio strutture, sono abbastanza pericolose, e specie con l'incrementare del traffico, magari quando sono state costruite potevano ancora reggere, ma adesso insomma veramente rischiano di essere pericolosi. Un'altra cosa che vorrei però sottolineare riguarda il trattamento nei confronti dei disabili. Ecco. Perché anche qui ci sono cose abbastanza inaccettabili, francamente. A me è capitato più di una volta di vedere all'ingresso dei bar, dei ristoranti, degli autogrill, tra parentesi quasi nessuno alla porta automatica, per cui anzi sono porti abbastanza questo, difficili esatto, da aprirsi e abbastanza scomodo, scandaloso francamente, perché non penso insomma sì, sì, ho visto anziani fare fatica ad aprire la porta, per dirne una che voglio dire nel 2009 è abbastanza scandaloso Se si considera quello che c'è oltre le Alpi non è neanche possibile fare un paragone, ma la cosa ancora più grave sotto certi aspetti è che in diversi casi ho visto per esempio davanti alla porta dei disabili una pubblicità che davanti proprio alla porta che ostacolava l'ingresso dei disabili, oppure una rastrelliera con i giornali in vendita. Questo francamente non... Quasi a ridurre al minimo l'accesso, tu sì. Dici in alcuni autogrill, sì, ripetiamo, sì, stiamo certo. Generalizzando, no, però no, certo, su 150 certo. Autogrill visitati certo. Di persona da due giornalisti esatto. Di quattro comunque ruote. Comunque li abbiamo quindi... segnalati, quelli certo, che, dove certo. Abbiamo trovato queste situazioni veramente... incresciosa a dir poco. Ok, allora due indicazioni veloci: www.quattroruote.it. Ti ricordi in che sezione avete inserito tutti questi dati e questi risultati di un'inchiesta importante, 150 autogrill visitati? Ma guarda, quando l'abbiamo fatto, / dalla-rivista, aprendo questo link ci sono. Perfetto. Sicuramente anche. Poi è facile trovarlo, esatto, con un cerca nel sito. Grazie davvero a Emanuele Barbaresi per questo importante argomento che va a toccare proprio esattamente gli autogrill che noi quest'estate frequenteremo copiosamente in Italia, ma anche gli stranieri. Grazie Emanuele, a prestissimo. Grazie a voi, a presto. Quattro ruote e dintorni. Allora, dicevamo, l'avvocato Lievore ci fa compagnia. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei, ascoltatori. Ci accompagna sempre nella trasmissione, o quasi sempre, con il codice della strada in mano per insegnarci o delle novità, come questa sera, oppure a conoscere le vecchie novità, che in realtà rimangono tali perché le ignoriamo. Davvero ci ha fatto conoscere alcune norme sconosciute. Mi viene in mente quella del divieto di tenere l'auto accesa per alimentare l'aria condizionata. Insomma, pochi lo sanno, ci sono sanzioni terribili. Ma a proposito di attualizzazioni e aggiornamenti, avrete sentito tutti che la Camera ha approvato le nuove norme del codice della strada proposte dalla Commissione dei Trasporti, presieduta da Mario Valducci del PDL. Bene, ci sono delle notizie importanti. Adesso è in attuale aggiornamento, in attuale audizione al Senato, per cui il Parlamento tutto sta valutando la validità di queste norme. Se dovessero andare in porto, ci sarebbero delle novità importanti. Avvocato, intanto è una riforma che non è in vigore, chiaramente. Sì, giustamente, come ha detto lei, non è ancora in vigore in quanto si attende l'esito del Senato. Si sta parlando di un codice che nel futuro sarà diviso in due parti, una parte che riguarderà soprattutto i comportamenti dei conducenti di un veicolo e dall'altra parte si avranno norme molto più tecniche. E questi articoli, si sta decidendo la riforma o meno, sono circa 41 e magari qualcuno più importante possiamo vederlo insieme, sapendo appunto che non sono ancora in vigore, sottolineando questo. Bene, bene, approfittiamone e ci dica, avvocato. Allora, innanzitutto porre l'attenzione su quella che è l'inversione del senso di marcia. Invece la sospensione della patente da 6 a 24 mesi, c'è una proposta di revoca della patente a chi su autostrade e strade extraurbane inverte il senso di marcia o attraverso lo spartitraffico o ancora percorre la carreggiata in un senso di marcia opposto a quello consentito. Quindi attenzione, revoca della patente al posto della sospensione da 6 a 24 mesi. Bene, prego. Ci sono poi delle riforme che riguardano i punti della patente, si sta decidendo infatti per una forte penalizzazione della decurtazione e per esempio chi nell'arco di 12 mesi ha commesso 3 violazioni al codice della strada che comportino la sottrazione di almeno 5 punti della patente dovrà sottoporsi all'esame di idoneità tecnica e revisione della patente nuovamente e perde invece 2 punti chi sosta nello spazio disabili, 8 punti in caso di mancata precedenza a un pedone che attraversa su strisce pedonali e 4 punti quando il pedone attraversa senza le strisce pedonali. Quindi, come vediamo, un inasprimento un po' di queste decurtazioni. Decisamente un inasprimento sui punti. Bisogna parlare anche di limiti di velocità, non questa sera, essendo l'argomento decisamente importante. Lo rimandiamo appena sarà approvato, se verrà approvato, come si pensa, il nuovo codice della strada, perché in quello è uno dei pochi punti in cui c'è un po' di depenalizzazione a livello di decurtazione, forse si perderanno un po' meno punti per dei limiti di velocità in eccesso inferiori ai limiti quelli da extraterrestri. Per intenderci, oggi si perdono 5 punti per chi va da 10 a 40 km orari, sembra che si arrivi a 3 punti invece di decurtazione. Lo facciamo però la prossima volta. Grazie avvocato Lievore di Milano, a presto e buona serata. Grazie, buonasera a lei, suoi ascoltatori. Vi ricordo che per entrare in connessione con l'avvocato Lievore è sufficiente scrivere a noi inoltreremo le vostre domande allo studio legale 4ruote@radio24.it. Vi daremo risposta attraverso i microfoni, soprattutto a quelle domande che poi possono interessare tutti. Rispondiamo ovviamente a tutti, ma al microfono a coloro che possono in realtà avere un argomento utile per molti. Buona serata adesso invece all'analista del Sole 24 Ore, il professor Paolo Malagodi. Buonasera. Salve Roberto. Con un po' di anticipo rispetto ai tempi, partiremo dal mercato europeo per arrivare a capire cosa sta succedendo in luglio, anche se un po' presto per dirlo, ma ci sono dei dati europei interessanti. I dati europei vengono comunicati a metà del mese successivo, al quale c'è la chiusura, perché c'è la raccolta dei dati di tutti i 15 paesi tradizionali dell'Unione Europea, più 13 paesi che sono Islanda, Norvegia e Svizzera dell'area EFTA, quindi abbiamo 18 paesi che costituiscono la cosiddetta Europa occidentale. Poi abbiamo i nuovi membri della UE, i paesi dell'area ex socialista, dalla Bulgaria alla Slovenia e quant'altri, che compongono un'Unione Europea nella quale il dato di giugno, con 28 stati aderenti, è positivo per la prima volta dopo diversi mesi. Il segnale è importante perché c'è un forte traino della Germania, che con i contributi dati anche per l'acquisto di vetture di qualsiasi cilindrata ha un più 40%, l'Italia un più 12,4%, va, continua a tirare la Francia, paesi che hanno gli eco-incentivi o incentivi agli acquisti dall'inizio dell'anno. Vanno meno peggio la Spagna e l'Inghilterra, che hanno appena attivato una politica di incentivi. Tra i paesi dell'area ex diciamo socialista continua a esserci un andamento altalenante, paesi che sono fortemente in crisi come l'Ungheria e la Romania tendono ad abbassare tutto il livello, nonostante che ad esempio Slovacchia o Repubblica Ceca vadano bene, per cui il dato dei nuovi paesi membri dell'Unione è negativo e il dato complessivo dell'Unione si abbassa al 2,4, mantenendosi il dato dei sei mesi a un meno 11%, quasi in parallelo col dato italiano che nel periodo dei primi sei mesi è stato di un meno 10,7, anche se abbiamo appena avuto un giugno con un netto più 12%. Più 12, che già ci diceva qualche cosa. Per passare al mercato italiano, quali sono secondo lei le riflessioni da fare dall'Europa all'Italia? Quali differenze maggiori soprattutto, o quali similitudini ci suggeriscono qualcosa sul futuro? Siamo sempre lì che vogliamo andare. La similitudine è che il mercato italiano, come la parte del mercato europeo che tira, lavora sulla base degli ecoincentivi che sostengono soprattutto le marche che presentano vetture richieste con alimentazione a GPL e metano. È un mercato che risente della disponibilità delle fabbriche di questi prodotti, che in luglio, anche se un po' presto, perché da questo sabato 25 al prossimo 31 luglio passa una buona settimana e l'ultima settimana di ogni mese sappiamo è quella di immatricolazioni accelerate, però se l'anno scorso luglio è stato attorno alle 193.000, posso prevedere che questo luglio si avvicini alle 208, non dico 210, ma saremo lì in immatricolazioni, quindi un buon 8% in più, con Fiat che andrà bene soprattutto per l'apporto di Lancia, anche qui Ypsilon e Musa e Cochic, Fiat anche con le sue vetture GPL, meno bene Alfa. Poi avremo che vanno bene Ford, nonostante le consegne della K siano ormai a 2-3 mesi, e Peugeot con il GPL sulla 207 molto richiesto. Tra i brand premium sta andando alla grande Audi, che sopravanza in questo periodo e sarà così anche in luglio nettamente sia Mercedes che BMW. È un'altra volta Audi che quindi fa bella figura. L'appuntamento con lei, professore, è a fine agosto, dove cercheremo di tirare le fila un po' di questa estate che sarà ormai al termine, quindi le auguro buone vacanze, buon riposo, a presto e buona serata. Ben volentieri a risentirci. Salutato il professor Malagodi, adesso ci occupiamo di un argomento non sospettabile, direi. Le strade di campagna, voi dite che c'entra? In realtà c'entra, non tanto perché sono strade, quanto perché alcuni dati usciti da uno studio di Dekra, il network di base tedesco ma presente poi in tantissimi paesi del mondo, ha evidenziato delle cifre incredibili. Pensate che i morti sulle strade di campagna sono superiori alla somma di tutte le persone, di tutte le vittime delle strade, di tutte le altri tipi di strade. Come dire, si muore di più sulle strade di campagna che in autostrada, sommate a città, sommate a extraurbane. Questo ha dell'incredibile, eppure i dati parlano chiaramente. Lo facciamo dire al direttore generale di Dekra Revisioni Italia, Andrea Dalisca. Direttore, buonasera. Buonasera. Da dove parte questo studio e dove arriva, direttore? Allora, questo studio parte dai centri di ricerca di Dekra. Abbiamo dei centri che studiano e ricostruiscono incidenti reali, sono dei crash test che, anziché essere i classici crash test noti ai più della Euro NCAP, sono vetture che si scontrano contro barriere fisse. In questo caso noi ricostruiamo incidenti veri con la finalità di capire non solo quello che succede al veicolo, ma soprattutto cosa succede agli occupanti e perché questi incidenti avvengono. La finalità è quella di sviluppare delle strategie di prevenzione e creare della cultura sulla sicurezza stradale. quindi indirizzata in primo luogo a chi si occupa di mobilità, ai politici che poi fanno le norme e agli operatori come noi, ai costruttori di veicoli, a chi costruisce strade e non ultimo, in termini di importanza, l'utenza, quindi gli automobilisti, i motociclisti, i pedoni e i ciclisti. Per esempio con dei consigli a cui arriveremo. Prima però facciamo un ragionamento. Di solito in campagna ci si sente più sicuri, direttore, perché si va un pochino più piano, perché c'è l'erba accanto, eccetera. Però prima parola chiave, alberi, grande pericolo. Esatto, alberi grande pericolo, perché i filari d'alberi che costeggiano spesso le strade di campagna sono in molti casi una vera minaccia, un vero pericolo in caso di incidente. Intanto tendono a disturbare, soprattutto in certe ore della giornata con il sole a una certa altezza, c'è un effetto stroboscopico di chiaroscuro, che in alcuni casi oltre che disturbare può addirittura anche un po' stordire chi guida. Il pericolo in che cosa consiste? Che in caso d'urto contro l'albero l'energia viene scaricata su una superficie molto limitata, su un punto solo, e la vettura tende ad accartocciarsi. Infatti tecnicamente uno dei termini usati è accartocciamento del veicolo. Normalmente poi l'urto avviene contro le superfici del veicolo che sono le meno protette, il tetto, le portiere e quant'altro. E in questo caso l'energia cinetica che si scarica contro l'albero, che è rigido, fisso e una superficie quindi, ripeto, limitata, possono essere devastanti per chi è a bordo. Va bene, poi un'altra parola chiave sono i sorpassi, il momento più pericoloso e i rischi maggiori si corrono nei punti di raccordo. Detto tutto questo, vuole elencare 3-4 consigli belli secchi e precisi per gli ascoltatori e poi ci salutiamo. Sì, assolutamente. Beh, innanzitutto cintura di sicurezza e casco allacciato per chi va in moto. Sembra scontato, ma non lo è mai abbastanza. Ma non lo è mai, esatto. Maggiore attenzione e concentrazione sulla strada che su altre strade, proprio perché in campagna o diciamo su strade extraurbane ci si può distrarre facilmente. Ci sono utenze diverse, dal pedone al trattore, alla macchina, al ciclista, che vanno a velocità e con motivazioni diverse sulla strada. Stare molto attenti prima delle curve, perché soprattutto sulle strade in montagna o in campagna, dove ci sono filari d'alberi o altro, l'ombra può nascondere l'insidia, può nascondere il veicolo che sta arrivando, che magari non ha le luci accese, soprattutto se si tratta di un motociclista. Un'altra cosa importante è sorpassi. Attenzione che in campagna è facile sbagliare, soprattutto se ci sono veicoli lenti come quelli agricoli, è facile sbagliare il calcolo della velocità relativa del mezzo e della distanza. E poi attenzione agli incroci da campi o da strade di campagna, da cui può uscire sempre un pericolo, una minaccia, dal trattore all'animale selvatico o a un ciclista o a un altro veicolo. Decisamente importante questo insieme di consigli. Vorrei darvi due siti, decra.it per maggiori informazioni o decra.de, può valer la pena se parlate tedesco o inglese andare a fare un salto sul sito originale dell'azienda tedesca. Grazie al direttore generale di Decra Revisioni Italia per la sua disponibilità. Buona estate, Andrea D'Alisca. Altrettanto, grazie mille. Quattro ruote e dintorni. Allora, dulcis in fundo, arriva la prova di un'auto che sta facendo impazzire un po' tutti gli amanti dello sport, ma del design di qualità. Parlo della Z4, già annunciata, ed è la nuova Z4 diventata un po' l'oggetto del desiderio dell'estate 2009. Indubbiamente riuscite le modifiche, intanto estetiche, al design rispetto alla squadratura bengliana, no? Chris Bengel, che sarà ospite fra due settimane ai nostri microfoni, aveva accettato un po' la vecchia Z4, peraltro facendone un grande successo. Dopo le prime critiche, vedremo come si comporterà la nuova Z4, più armoniosa, un pochino più tonda, ma sempre aggressiva. Questo per dire l'estetica. Ne parliamo con BMW Italia e con Quattro Ruote. Allora saluto il responsabile di tutta la comunicazione del gruppo BMW, Gianni Oliosi. Buonasera Gianni. Buonasera a tutti. E grazie per i minuti che dedicherà ai nostri ascoltatori. Grazie anche e buonasera a Roberto Barone di Quattro Ruote. Ciao Roberto. Buonasera a tutti. Facciamo così, contrariamente al solito, facciamo introdurre l'autovettura dal punto di vista dell'azienda. Gianni ci racconta la nascita intanto di questa vettura. Mi piacerebbe che lei citasse quell'esperienza che io tra l'altro personalmente ho fatto a Los Angeles, dove avete inventato una campagna stampa che poi si è vista mesi dopo in TV come espressione di una gioia, questa Z4. La Z4 è proprio l'espressione massima della gioia BMW, il piacere che si prova nel guidare una vettura BMW. E, tra l'altro è la settima generazione di Roadster BMW che nasce quest'anno a 75 anni esatti dal primo esemplare, dal primo modello, sì. La 315 del 1934, quindi da 315 è passati la 328 degli anni 40, la 507 negli anni 50, la Z1 negli 80, nel 90 ha visto la luce a Spartanburg la Z3, alla fine dei 90, degli anni 90, primi 2000, la Z8 interamente in alluminio, e per arrivare alla Z4, prima versione nel 2002-2003, sempre a Spartanburg, ora seconda generazione, costruita però in Europa a Regensburg. Diciamo che questa Roadster praticamente è proprio l'espressione massima della guida, del piacere di guidare BMW. Classica Roadster per quanto riguarda l'assetto, quindi cofano allungato, linea di spalla piatta, parabrezza inclinato, posizione di guida sopra la sale posteriore, baule corto, baricentro basso e passo lungo, le caratteristiche di una classica Roadster, alla quale BMW ha aggiunto a questa edizione un po' una linea più morbida, sì, e una maggiore versatilità dell'interno. Non a caso questa automobile è stata, sì, proviene dal team di Chris Bengel, ma è stata affidata alle mani di due donne, una per gli esterni e una per gli interni, Julian Blasi per gli esterni e Nadia Arnaud per gli interni. È curioso. E tra l'altro due delle uniche tre designer femminili del team di Chris Bengel. Del team, e quindi questo indica sicuramente un'attenzione a quella sensibilità che spesso hanno le designer rispetto ai designer, e poi anche un'attenzione al mercato, perché il design si sposta velocissimamente e chi primo arriva più piace alla gente sicuramente. C'è una novità che mi piace mettere in evidenza, oltre a quello che diceva Gianni, il tetto rigido. Gianni, come mai secondo lei questa scelta da parte dei progettisti tedeschi? Un po' tutto il mercato, California, Ferrari per ultima, sta andando in quella direzione. Comodità? Beh, sicuramente è proprio una transizione tra i tradizionali, le tradizionali caratteristiche della Roadster, in BMW in particolare, verso nuove esigenze della clientela. Quindi la nuova Z4 va a rispondere alle nuove esigenze in termini di maggiore spazio, di comodità e soprattutto di utilizzo in tutte le stagioni, quindi comfort, oltre che le tradizionali qualità, sicurezza e efficienza sportiva. E il tetto rigido a scomparsa, l'hardtop a scomparsa, tra l'altro deriva un po' dalla è un'evoluzione di quello della serie 3. Non a caso entrambe le vetture vengono costruite in Europa a Regensburg nel medesimo stabilimento, quindi anche un'ottimizzazione un po' della tecnologia e dei costi di logistica. Certamente. Allora, Roberto Barone, mi dai il tuo punto di vista dopo averla conosciuta, dopo averla guidata? Che cosa ne dice Quattro Ruote di questa nuova Z4? Promossa? Decisamente sì. Diciamo che quello che ci è piaciuto particolarmente, partiamo dal punto di vista estetico, è diciamo il fatto che è stata mantenuta una certa grinta con questo muso ridisegnato, e grazie anche alla presa d'aria a tutta larghezza sotto la doppia mascherina e questi fari dall'aspetto abbastanza aggressivo. Anche la coda è stata rivisitata in diciamo rendendola un po' più morbida, ma si è mantenuto questo aspetto da sportiva pura. Ma anche i cerchi da 19 che erano presenti nella vettura da noi provata le hanno conferito sicuramente un aspetto ancora più grintoso e più aggressivo. Una volta tanto riusciamo, scusami, a fare una prova incrociata, perché di solito di un tipo di auto proviamo un modello evidentemente, però questa volta abbiamo avuto l'opportunità tu di provare la 35i, che è uno dei tre, esatto, una delle tre versioni, la più pepata, sono più di 300 cavalli, il 6 cilindri è sempre quello, ma ha un biturbo nel tuo caso. Io ho provato il 3000 aspirato, che è la mia impressione, ma forse è il compromesso ideale in questa fase. ed è 258 cavalli, comunque un ottimo spunto entrambe, come sentiremo dalla scheda tra pochissimo, sullo 0-100. Però la versione poi si allunga con una più piccolina, la sorella entry level, e chiamiamola entry level invece, che registra una cavalleria un pochino minore. Ma a questo proposito tutti i dettagli li trovate nella scheda che stiamo per ascoltare. In questa nuova edizione la BMW Z4 è un'auto unica e bivalente. Lascia la capotta di tela per l'hard top a doppio guscio metallico a scomparsa, che si apre da fermi in 20 secondi. Prima c'erano due versioni, la coupé chiusa e la roadster. Adesso una sola li accontenta tutti. Ha anche più grinta grazie al muso ridisegnato, alla presa d'aria a tutta larghezza sotto la doppia mascherina BMW e i fari dall'aspetto aggressivo. Insomma, se la vedi nello specchietto, ti fai da parte. Rivisitata anche la coda, dalle forme più morbide. Della precedente restano il lungo cofano e le due unghiate sulla fiancata. Su strada è un'auto morbida per la guida rilassata, mentre diventa ruvida e scattosa se si preme il tasto Sport, che setta le sospensioni sul rigido, aggiunge pepe alla centralina e indurisce lo sterzo. Insomma, l'ideale anche per chi cerca vere scariche di adrenalina. Nome: BMW Z4 S-Drive 35i e 30i. Carrozzeria: due porte a due posti. Dimensioni: lunghezza 4,24 m, larghezza 1,79 m. Peso: 1.505 kg. Motore anteriore longitudinale, 6 cilindri in linea. Potenza: 306 cavalli per la biturbo 35i e 258 cavalli per l'aspirata 30i. Trasmissione: trazione posteriore, cambio automatico a 7 rapporti con doppia frizione, solo su versione 35i. Prezzo della 35i da 50.551 euro. Ecco, questi erano i dettagli per conoscere un pochino meglio la guida, visto che è un'auto che si presenta con ambizioni davvero elevate. 204 sono i cavalli della 23i, che è la versione più piccola, ma per darvi uno spunto di riflessione, ha uno 0-100, anche la più piccola, chiamiamola così, in 6,6 secondi. Quindi tanta sportività. Gianni, le do qualche impressione e poi la commentiamo insieme a Barone. Prendiamo la 30i, io l'ho trovata molto più comoda del previsto, avete fatto uno sforzo notevolissimo per il comfort degli interni, e poi una scelta che vorrei che in qualche modo lei mi spiegasse, che Barone mi dicesse se sulla 35i ha trovato o no. Almeno sulla 30i, nella posizione del cambio, chiamiamolo normale, di drive, l'auto è abbastanza confortevole, quasi fin troppo per il viaggio, e ha un cambio abbastanza lento. Nella classica prova, arrivando in rilascio al semaforo, simulando il semaforo verde, di colpo si affonda tutto il pedale dell'acceleratore, insomma ci pensa un po' e poi cambia marcia e sale di giri. Tutto questo viene evitato se si spinge di qualche centimetro a sinistra la leva del cambio o si schiaccia il tastino Sport, tutto diventa, dalla centralina all'assetto, tutto molto più sportivo. Secondo lei questo è voluto così tanto o si poteva trovare un compromesso migliore, Oliosi? Penso che faccia parte proprio di quella trasmutazione, di quella transizione tra le caratteristiche classiche della Roadster, di una certa spartanità se vogliamo, verso, come dicevamo prima, un maggior comfort e una maggiore versatilità, non soltanto nell'utilizzo degli interni. Come dicevo prima, la mano femminile ha fatto trovare stipetti, vani e portaoggetti che non sono mai sufficienti nella vettura, ma anche poi nel maggior comfort e nella versatilità per la guida da parte di tutti gli utenti, dai più esigenti a quelli che amano semplicemente gustarsi un viaggio a cielo aperto senza dover fare delle prestazioni, ottenere delle prestazioni diciamo estreme. Eccessive, vorrei, è chiaro. Vorrei sì. Precisare che una cosa che mi sta a cuore ancora precisare è che pur con tutto il piacere che uno può provare con il biturbo o con la versione 2.3, con la versione intermedia che ha provato lei, va sottolineato che BMW non abbandona, nemmeno in questo modello così frizzante, brioso, la sua strategia Efficient Dynamics, e quindi sulla Z4 ritroviamo le caratteristiche e gli aggregati che hanno consentito a BMW di contenere nell'arco di 10 anni del ben il 26% le emissioni e i consumi, quindi il Brake Regeneration Energy, un disegno di lightweight design, un'aerodinamica ottimizzata, l'indicatore del cambio di marcia, quindi chiaro, lei avrà notato senz'altro l'indicatore, lo sterzo elettromeccanico, sì, quindi diciamo l'elettricità in sostituzione dell'attingere potenza dal motore, e poi anche la grande possibilità di interconnessione di questa automobile col mondo esterno grazie al sistema BMW Connected Drive, che offre più sicurezza, ancora più comfort e anche infotainment, quindi tutta la serie, un passo evolutivo di non pochi gradini, forse di un intero pianerottolo, va riconosciuto certamente, va riconosciuto. Sentiamo Barone sulla guida della 35i, quel biturbo, come si comporta in rilascio e in ripresa. Io questo difetto tra virgolette non l'ho notato in maniera almeno così accentuata. Cioè, sì, che non vuole neanche essere un difetto, è una caratteristica chiaro, ben precisa. L'ho messo tra virgolette perché è chiaro che non lo è assolutamente. Si parte ovviamente dal presupposto che una sportiva ci si attende grinta e vivacità, però diciamo anche che c'è quel famoso selettore sport che consente scatenarsi ovviamente sempre entro i limiti di velocità oppure di farlo in pista. Ecco. Dicevo, il motore di questo V6 della versione 35i non mi è sembrato avere pecche, anzi forse grazie ai 306 cavalli e 400 Nm di coppia ha rivelato una scioltezza straordinaria e anche una bella progressione. Poi in realtà lo scatto 0-100 rispetto alla versione da te provata varia di ben poco, perché siamo nello 0-100 in questo caso lo fa in 5 secondi e 26, certo, e 5-8 la versione 3000, quindi ci siamo, esatto, insomma, esatto, è quello un dato notevolissimo. Tra l'altro mi piace dare, come facciamo in ogni prova da ormai 3 mesi, il rapporto peso-potenza che mi sta sempre più a cuore. Quest'auto che pesa 1505 kg nella tua versione, ormai la chiamo tua, esatto, beato tu, e che eroga 306 cavalli, ogni cavallo spinge 4,92 kg, è uno dei migliori rapporti che abbiamo provato negli ultimi mesi, fatto salvo le Porsche, Lamborghini, Ferrari ovviamente, quindi indubbiamente la cattiveria si sente tutta. Sentiamo insieme la pagella e poi torniamo con una riflessione per Oliosi e una per Barone, ci salutiamo. Posto guida, sta meglio chi è d'alta statura rispetto a uno piccolo, volante non in asse col sedile, voto 4 stelle. Spaziosità, è una roadster che quando è chiusa non dà sensazione di oppressione, bagagliaio ampio quando la capota è chiusa, voto 4 stelle. Prestazioni. Da soddisfazioni, è facile da guidare. Da 0 a 100 il biturbo impiega solo 5 secondi e 2, mentre la 30i ne impiega 5 e 8, voto 5 stelle. Freni, una delle cose migliori della vettura. Il pedale è morbido, all'americana, spazi ridotti, 5 stelle. Su strada, stabile e veloce. Per i puristi della guida forse c'è un po' troppa elettronica di contenimento, voto 5 stelle. Allora chiudiamo con Gianni Oliosi, le chiedo se ha qualche rumors dai suoi concessionari, so che è presto, ci sono ordinazioni, c'è interesse intorno a questa vettura o gli obiettivi che vi ponete, Gianni? Beh, sugli obiettivi siamo abbastanza cauti, possiamo soltanto dire che sicuramente avrà il successo della versione precedente e comunque l'Italia generalmente ricopre circa il 6% delle vendite mondiali di roadster BMW, più o meno ci attestiamo su questa percentuale. Per quanto riguarda le vendite, siamo più che soddisfatti dell'avvio della stagione della Z4 e tutto sommato anche sono abbastanza accettati i prezzi, perché ormai diciamo si va dai 50, decrescendo dai 50.400 euro della versione 3.5, ma si arriva ai 39.400 della versione base, che è pur sempre 204 cavalli. Certo. Vorrei notare che è un Euro 5, che tutte e tre le versioni sono Euro 5 soprattutto, e che due di questi modelli, il 2.3 e il 3.000, emettono meno di 200 grammi di CO2 per ogni chilometro. È vero. E poiché la CO2 è uno degli elementi che vanno anche pubblicizzati. Giustamente. Ultimo commento, un minuto per Barone come chiusura della Z4 nuova. Ma guarda, in generale il giudizio è decisamente positivo, soprattutto se consideriamo il comportamento di guida, con una guida abbastanza veloce, la trazione posteriore regala grandi soddisfazioni. L'inserimento in curva è abbastanza neutro, senza SP, caratterizzato da un certo sovrasterzo di potenza abbastanza controllabile. Con l'SP ovviamente entra tutto in funzione, riduce, tutta certo. L'elettronica, tutto si riduce, diciamo la nervosità della vettura viene gestita direttamente appunto dall'elettronica. I consumi, un dato importante di questi tempi, veloce, sono sì. Per un'auto così, diciamo per un'auto sportiva, sono decisamente bassi, perché si consumano 10,5 km con un litro su ciclo misto, insomma. È chiaro. Avete tutti i dettagli, tra l'altro, sui due siti radio24.it, nella sezione 4 ruote e dintorni, e di una prova di 1350 km in 3 giorni di Z4 3000, però la 30i, su www.turismoinauto.com per tutti i dettagli. Grazie Gianni Oliosi da BMW Italia, a presto e buona serata. Grazie a voi tutti. Grazie a Roberto Barone da Quattro Ruote, a prestissimo. Grazie a voi, alla prossima. Con loro termina anche la nostra trasmissione, fra 7 giorni però puntuali, alle ore 21 fino alle ore 22. A presto da Roberto Rasia e da Giacomo in regia, una buona guida a tutti.